Vi spiego, in Ungheria sono stata 17 anni sposata con un individuo che mi ha messo in mondo, mi ha fatto mettere in mondo i miei 5 bellissimi figli, ma a 17 anni sono stata violentata perché non ho mai sentito Con l'orgasmo, è questo signore stata che l'ha una fatto uccidere, cosa con questo suo meccanica. marito ungherese. Sì, Quindi il suo marito ungherese, diciamo, ha copulato con lei al fine procreativo senza darle nessuna soddisfazione. E esatto. va bene. Poi sono andata via da Ungheria, poi ho conosciuto i miei tre grandi amori diversi uno dall'altro. Esattamente, li classifichiamoli anche per nazionalità, così vediamo anche un po' le differenze. C'è un altro ebreo ungherese, ma conosciuto qui in Italia, che fra l'altro lui aveva una età abbastanza elevato, cioè era 9 anni più grande di me, che prima Quindi come re aveva. Salomone, che a un certo punto Sì. si applicava. E lui mi diceva, io prima di incontrare te già pensavo che ero ipotente. Quindi lei ha risvegliato, come appunto Sì, venne data la bellissima sì. ragazza re Salomone, Bezzabea mi sembra si chiamasse, per risvegliare appunto il torpore senile del sommo patriarca. Poi andiamo al prossimo. Prossimo e attuale, il mio compagno Di dov'è? è riminese. Io, Riminese, essendo da San Marino, sì, è un bagnino. riminese, sì, è una bellissima, facciamo, credo che non posso dire facciamo spesso, ma facciamo lungo, il tempo è Ah, quindi no, duraturo. non è molta frequenza, ma ha Ma acquisito, anche acquistato. frequente, ma vogliamo stare molto e come amalgamarsi, io Certo. e E con beh, adesso lui. lei con la sua esperienza naturalmente avrà molto. Ma il prossimo invece quando arriverà? Io spero che non arriverà più perché ormai sono vecchia e Quanti anni ha? Ma voglio invecchiare con lui se è quanti anni possibile. ha lei? Vabbè, 53 anni. vecchia, è più giovane di me, guardi, non mi dia questa coltellata al cuore. Arrivederci, ci sentiamo domani.